Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Anche oggi parliamo di sport perché c'è una parte dello sport che a noi piace molto, è la parte evocativa, quella piena di colpi d'ala, e tra gli sport sicuramente uno di quelli che più sono belli da narrare dal punto di vista letterario è sicuramente il pugilato, perché il pugilato per sua stessa natura richiede una spinta, una carica, la determinazione che deriva da esperienze di vita quasi sempre difficili, soprattutto in partenza. I pugili sono quasi sempre persone che arrivano da mondi difficili, tragici, che hanno sperimentato la povertà, la fame o addirittura il degrado, che sanno cos'è la sopraffazione, la violenza, e che possono raccontarne parecchi di colpi d'ala, anche perché li hanno vissuti sulla loro pelle. E noi abbiamo parlato di tanti campioni della box che hanno fatto del pugilato uno sport indimenticabile, e siccome in molti ci seguono, si interessano, ci consigliano delle storie, un ascoltatore ci ha consigliato una bella storia e noi eseguiamo prontamente. L'ascoltatore è Luca Menozzi. Buongiorno Luca. Ciao, buongiorno. Allora, io, come avrai notato, non ho ancora detto il nome del personaggio, e a questo punto devi dirlo tu. Rocky Mattioli è un personaggio straordinario del pugilato italiano, diciamo, di esportazione. Perché, Luca, hai scelto Rocky Mattioli? Ma io mi sono trovato qui a Milano, ad abitare qui a Milano ormai da 20 anni, e mi sono trovato a fare un paio d'anni di pugilato alla Doria e vedevo le foto dei vari campioni e ho conosciuto il viso di Rocky. E poi caso ha voluto che nel mio vivere, nel mio far famiglia, nei miei trasferimenti, trasloche, sono arrivato in zona da lui, per cui l'ho anche conosciuto. Ismail, che è un conoscente, me l'ha presentato e lo incontro anche ogni tanto qui in zona, quindi insomma per me fa parte un po' dell'empireo dei personaggi milanesi. Perché adesso, esatto, adesso è un personaggio milanese, anche se ha una storia che fa un po' il giro del mondo. Luca, ti ringrazio e buona puntata. Sì, grazie a te Enrico. Eh sì, il nostro protagonista di oggi è veramente un pugile straordinario, è un campione di casa nostra, è un italiano, anche se vedremo come lui ha una doppia cittadinanza perché è anche australiano, però è nato in Italia, ha un nome italiano e oggi vive a Milano con i suoi 63 anni portati egregiamente, prepara gli aspiranti pugili o semplicemente chi vuole allenarsi sul ring, come immagino Luca, e che abbiamo sentito prima. Insomma, è un mito vivente, uno dei pugili più forti, potenti del mondo. È stato definito il selvaggio del ring. Stiamo parlando di Rocky Mattioli e capiamo subito di che pasta è fatto lui, Rocky, con questa sua definizione del pugilato. La box è fatta per uomini, è fatta per uomini veri, e quindi i sacrifici prime, poi i dolori seconde. Le vittorie viene dopo, perché senza sacrifici e senza dolori le vittorie non vengono. Rocky Mattioli è un tipo molto tosto e non potrebbe essere diversamente con la vita che ha avuto. Nasce il 20 luglio del 53 a Ripateatina, ricordate questo nome? Siamo in provincia di Chieti, in Abruzzo, e questa cittadina, Ripateatina, ha un primato incredibile, irripetibile direi, perché di Ripateatina era originario anche un altro Rocky, un pugile che è considerato uno dei più grandi pesi massimi della storia, uno che si è ritirato imbattuto, sto parlando di Rocky Marciano. Nel mio paese voi sapete che anche il papà di Rocky Marciano è nato lì, e quindi Rocco Marciano come Rocco Mattioli, due Rocco, due RM, direi che un paesino talmente fortunato come Ripateatina non ci può essere. anche se Rocco Mattioli a Ripa Teatina ci rimane veramente poco, perché non ha neanche 5 anni quando emigra in Australia con la famiglia. Infatti avete sentito, insomma, è un modo di parlare particolare, una pronuncia mista tipica degli emigrati in giovane età, quelle che parlano un po' inglese e un po' la loro dialetto di origine, no? Che parlano un po' così. E sul fine degli anni 50 l'Australia è di gran lunga la meta più ambita di chi emigra e in cerca di fortuna, è più ambita degli Stati Uniti, perché è un mondo veramente nuovo, è tutto da fare, tutto da costruire. Così loro vanno a Morwell, siamo a 100 km da Melbourne, dove lui trova un mondo selvaggio che rende selvaggio anche lui, anche perché la gente del posto in Australia non è proprio ospitale, e in Australia in quegli anni erano razzisti forse più degli statunitensi. Ricordate, anche ne abbiamo parlato per esempio quando abbiamo raccontato la storia di Philip Norman, quello che salì sul podio con i due neri nel 68. Comunque, stavo dicendo che lui lì è sfottuto, gli danno dello sporco italiano, spaghetti, a 12 anni sta già lavorando, scarica i sacchi di cemento. Insomma, in quel contesto lì l'unico modo per esprimere la propria rabbia è tirare pugni. A 13 anni lui è già sul primo ring. È una vita difficile, dove il confine tra il legale e l'illegale è molto sottile. Un italiano povero in Australia è sempre sull'orlo dell'incidente che potrebbe portarlo in galera, e lui in galera ci finisce davvero. Guida in stato di ebbrezza, scazzottata coi poliziotti. Per fortuna le cose poi si aggiustano per Rocco, e si aggiustano grazie alla box. Purtroppo noi eravamo molto poveri a quei tempi. Mio padre è andato in Australia 2 anni prima e poi ci ha chiamato per andare giù anche noi. Eravamo molto poveri, quindi credo che la povertà ti porta a fare qualsiasi cosa. A me mi ha portato a fare la boxe, credo che è la cosa più bella che è mai successa in vita mia. Però in Australia la box è più brutale di quella italiana, perfino di quella americana. Le regole sono più tolleranti, diciamo, verso le irregolarità dei pugili. Lui emerge da quello che si può veramente definire un girone infernale. Nel 70, a 17 anni, inizia a combattere in maniera professionale. È agguerrito, è tenace, è forte, ha una grinta che lo rende imbattibile, e infatti nessuno lo batte. Nel 73 arriva dove neanche lui avrebbe pensato di poter arrivare. Rocky, perché si ribattezza così in onore del suo idolo e conterraneo Rocky Marciano, mette le mani niente meno che sul titolo australiano dei pesi welter, perché è un aggressivo, è potente, ma fa anche un pugilato di ottima qualità. E qualcuno lo nota, sono Giovanni e Umberto Branchini, due famosi manager sportivi italiani che hanno occhio lungo, esperienza, lo notano e lo prendono nella loro scuola e se lo riportano in Italia soprattutto. Il falco e il gabbiano. Rocky Mattioli, che ha iniziato a combattere in Australia nel girone dantesco della box dura e selvaggia che si combatte da quelle parti, che viene poi notato da Giovanni Umberto Branchini, che viene fatto tornare in Italia, ha il cuore diviso in due, perché lui è un italiano emigrato, il suo paese adottivo però lo ama molto, ha combattuto sotto i colori della bandiera australiana, adesso si trova in un paese che, anche se è il suo, lui conosce poco, e però ha forza, ha determinazione, e la grinta che ha gli deriva da una situazione di vita che non è facilissima. Insomma, è un pugile fortissimo e la sua storia personale convince e conquista subito gli italiani, e questo lo fa sentire a casa. Ascoltate il suo ricordo in proposito. Noi siamo andati via nel 58, mi sa che era, io avevo 4 anni e mezzo. Però l'Australia a noi ci ha accolto con le braccia aperte, ci ha dato lavoro, mio padre ha dato tanta possibilità, e quindi a me mi ha iniziato a fare la box, ho iniziato la box lì in Australia, ho iniziato a tirare i primi pugni, le vittorie di tutto, ho vinto il campionato Victorian, sono venuto secondo al campionato australiano, ho fatto tantissimi combattimenti, però l'Australia mi ha sempre accolto come un figlio. E quindi quando io sono arrivato in Italia, anche l'Italia, perché io sono nato in Italia, mi ha accolto come un figlio, a combattere per una patria sola, a me non ritenevo una cosa giusta. questo, quindi io ho detto no, qui c'è due patrie e due patrie meritano la stessa opportunità, quindi ho fatto suonare le due bandiere per tutte e due le patrie. E l'italo australiano Rocky Mattioli, appena rientrato in Italia, viene ingaggiato subito per un incontro storico. Dovrà affrontare quello che è considerato uno dei pugili italiani più forti di sempre. È genovese, ha 34 anni, si chiama Bruno Arcari. È uno che ha vinto 57 incontri di fila senza mai andare al tappeto. Il 3 aprile del 76 al Palazzetto dello Sport di Milano, di fronte a una folla gremitissima, 14.000 persone, il 22enne Rocky Mattioli riesce a tener testa a Bruno Arcari, conclude in parità un incontro molto cruento ma molto corretto. Appena arrivato in Italia, ma la sua grinta parla per lui, viene trasformato subito in un idolo delle folle. Io ho preso da Rocky Marciano, mio idolo, e io sono stato sempre un picchiatore, sempre un uomo che mi piaceva fare la boxe, ma mi piaceva anche sudare, mi piaceva anche lottare, mi piaceva a vincere vero. Gli piaceva a vincere vero, è una frase ovviamente sbagliata ma giusta, perché dice veramente quanto quest'uomo sia onesto, abbia del fair play, ma ami la boss, quella bella, quella dove si ha stima e rispetto per l'avversario. Lui è nato per colpire Rocky Mattioli, ma è nato per combattere e diventa subito qualcuno. È la prima volta che Arcari, il grande Bruno Arcari, non batte un suo avversario. Quindi questo ragazzo arrivato dall'Australia, insomma, deve essere veramente forte. Gli occhi sono puntati tutti su di lui e lui ha in serbo grandi sorprese per i suoi fan. Rocky Mattioli è un guerriero e ogni volta i suoi incontri sembrano battaglie da film. È abituato alle corride australiane, come vengono chiamati i match da quelle parti, e che i pugili sono come dei tori, tutto è permesso, gli arbitri dicono solo stop and go, intervengono il meno possibile. Questo traspare nel modo di boxare di Rocky e rimane sempre nell'ambito dell'incontro leale, però i suoi pugni sembrano volere conquistare molto di più di ogni singolo incontro. C'è veramente la sua vita in quei pugni. Anni più avanti lui si tatuerà sulle nocche le parole love e hate, amore e odio, e dirà che l'ha fatto perché la box è come la vita, o nero o bianco, o tu o io, niente sfumature, niente spazio per l'incertezza. E come avviene in un altro match storico, quello contro Angel José Ortiz, che si tiene al Palazzetto dello Sport di Roma il 18 giugno del 77, Rocky Mattioli è una furia scatenata, butta giù Ortiz, che pure è molto forte, al terzo round. From the left side of the nose. From the nose and the air. Ortiz tried, he's coming there with the right, not really all over him. Ortiz, sorry, he's holding on. Good right hand to the body of my buddy. The end is near for Ortiz. L'occasione mondiale arriva nel 1977, abilmente orchestrata dai Branchini, i suoi manager. Lui ormai è un pugile completo, letale, aggressivo, e così avviene la sfida destinata a cambiare la vita di Rocky, ma anche la sfida che regalerà momenti indimenticabili di puro pugilato. È il 6 agosto del 77 alla Deutschlandhalle di Charlottenburg, nei pressi di Berlino. L'italo australiano Rocky Mattioli affronta il campione del mondo dei super welter, il tedesco Eckhard Dagge. Dagge è un pugile forte con un sinistro micidiale, ha appena sconfitto Emil Griffith, però non ha la grinta di Rocky. All'incontro non c'è la televisione italiana, insomma uno dei tanti autogol della storia della televisione italiana. Il match non viene ripreso, saranno solo gli appunti e gli articoli dei nostri giornalisti a raccontare un incontro straordinario. Mattioli mette subito in mostra un bagaglio tecnico superiore a quello del tedesco, incassa i colpi duri dell'avversario, così come da ragazzino aveva incassato le ingiurie che gli facevano in Australia perché era italiano. Ma appena esce dal guscio che si è costruito, sferra colpi micidiali. Dagge all'inizio li schiva, poi comincia a non vedere più. Alla quinta ripresa Rocky si abbatte sulla mascella del campione come un ciclone, una combinazione sinistro-destro che stende al tappeto il tedesco. Il nuovo campione del mondo dei super welter è Rocky Mattioli. Il 6 agosto del 77 lui è diventato un campione vero, è una data storica del pugilato italiano, una delle pagine più esaltanti di sempre. Eh beh, è stato un sogno che poi dopo si è verato. Per me è stato tutto un film, diciamo. Poi dopo, in realtà, sono io campione del mondo, quindi è stato bellissimo. Rocky Mattioli è campione del mondo dei super welter, medi leggeri, è il titolo che fu di Mazing, di Nino Benvenuti, è un titolo che finalmente torna in Italia e tutti lo attendono al varco, lo guardano con grandi aspettative. Dovrà difendere il titolo dagli sfidanti più agguerriti del mondo. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la vita e le imprese leggendarie di uno dei più grandi campioni del pugilato di casa nostra, Rocky Mattioli, originario di Ripa Teatina, che è lo stesso comune abruzzese di un altro grande pugile, di Rocky Marciano. Però Mattioli ha solo 6 anni quando è emigrato in Australia con la sua famiglia, a 13 anni ha mosso i primi passi sul ring, a 20 ha conquistato il titolo australiano dei pesi welter, poi è tornato in Italia da campione e nel 77 a Berlino è arrivato il titolo mondiale dei super welter. Insomma, è entrato definitivamente nella storia del pugilato mondiale e a questo punto sono molti gli sfidanti che vogliono portargli via il titolo. Lui combatte a Milano, a Las Vegas, in Australia, va a sconfiggere un bel pugile, Elisha Obed delle Bahamas. Poi il 14 maggio del 78 nella sua terra c'è un incontro allo stadio Adriatico di Pescara, è un match che si preannuncia molto interessante, lo sfidante è uno spagnolo, José Manuel Duran. Fifth round, super welterweight championship on the line as the champion Rocky Mattioli in the black trunks defends against José Duran of Spain. Mattioli, a native son of the Abruzzo region of Italy on the Adriatic side. Born in the town of Ripa Teatina, lives now in Milano, having grown up in Australia. And Duran is down for the third time in the fight. Down in the second, down in the fourth, down in the fifth. The fight is over. Rocky Mattioli has defended his world super welterweight championship. E Rocky Mattioli esce vittorioso anche da questo incontro, KO alla quinta ripresa, è forte, ha una determinazione che annienta anche questo avversario. Poi arriviamo al 4 marzo 1979, è una data che Rocky Mattioli non dimenticherà mai più. È stato organizzato l'ennesimo incontro per la difesa del titolo, quello che Mattioli detiene da 2 anni. In questo caso lo sfidante è un pugile britannico, un certo Maurice Hope, un nero di Antigua e Barbuda, è molto forte anche lui, ha al suo attivo un numero impressionante di vittorie per KO. L'incontro si tiene in un posto molto strano per un incontro di boxe, un posto che io conosco molto bene, si tiene al Teatro Ariston di Sanremo. Ma questo non è come tanti altri incontri di Rocky Mattioli, questo è un match tragico che vede consumarsi sul ring il dramma di un campione. Perché già da prima dell'incontro il destino sembra accanirsi contro Rocky Mattioli. Mentre attraversa davanti all'Ariston un furgoncino gli passa su un piede, lui lo blocca con il braccio destro. È un incidente strano, non si capisce la dinamica, sta di fatto che Rocky sente un gran male, ha fatto un movimento brusco e ne risentirà proprio quella sera. E si sa, sul ring il minimo acciacco può essere fatale, ma lui è favorito. Hope ha pareggiato con Doug, che è stato stracciato da Mattioli, quindi in teoria lui ha la vittoria in pugno. Purtroppo però quello che accade è l'imponderabile che sta sempre dietro l'angolo in questi casi, e il colpo d'ala verso il basso, perché al primo round Rocky Mattioli incassa un colpo che gli frattura il braccio destro, quello col quale la mattina aveva fermato il furgoncino. Chissà se è un caso o una tremenda fatalità. Rimane il fatto che per 9 riprese, ripeto 9 riprese, Rocky Mattioli rimane sul ring in una condizione nella quale chiunque sarebbe corso all'ospedale urlando. Combatte con un braccio solo senza cedere, l'altro braccio è fratturato, dà a tutto il mondo una lezione di vita, dimostra di che pasta è fatto. La sofferenza è immensa, ma lui non molla fino all'inevitabile epilogo. What a fight! Italian fans cheering for Rocky. Hope is the world champion. Morris Hope is the winner. Da pelle d'oca, e l'incontro finisce al nono round KO tecnico, però avete sentito il pubblico dell'Ariston che incita il campione, perché lui, rimanendo lì, sfidando quello che era impossibile sfidare, cioè il dolore fisico così terribile, batte, supera un limite umano, regala una performance sportiva difficile da replicare. Forse passa alla gloria ancora di più per questa sconfitta che non per le sue vittorie, e l'anno dopo, nell'80, perde ancora contro Morris Hope, e dopo una lunga tournée negli Stati Uniti nell'82 annuncia il suo ritiro, anche perché nel frattempo si è sposato e ha avuto 3 figli. E dopo la fine della sua carriera agonistica, Rocky Mattioli si stabilisce a Milano, dove lavora come istruttore atletico in diverse palestre, allena anche i ragazzi del Beccaria, cioè del carcere minorile. Nel 2015 partecipa come coach in un reality dal titolo emblematico Ti aspetto fuori. Il reality è fatto così: sono due colleghi d'ufficio che lavorano assieme ma non si sopportano e vengono allenati da due leggende del pugilato, Maurizio Zennoni e lui, Rocky Mattioli. Lui è un giovane rampante e lui è uno squalo della finanza. Il loro problema: non si possono vedere. A un certo punto bisogna crescere. C'è solo una soluzione: affrontarsi sul ring. Ad allenarli due campioni di box, Maurizio Zennoni. Visto che siamo provocare, lo vediamo e basta. E Rocky Mattioli. Dobbiamo ballare su lui, ballare e picchiare. Ma la paura a volte può metterti KO. Ma che uomo sei? Fagli volare via la testa. Hai due mani e due gambe come lui. Mai paura, mai. E per parlare di Rocky Mattioli abbiamo qui un vero esperto non solo di Mattioli ma proprio del pugilato mondiale. Abbiamo con noi il giornalista e scrittore Giuliano Orlando, che ha scritto diversi libri sul pugilato, che nel 2014 ha pubblicato un libro bellissimo, Rocky Marciano The King, dove ha dedicato un intero capitolo a Rocky Mattioli e che conosce molti aneddoti anche particolari su Rocky Mattioli. Ecco, cosa aveva Rocky di così particolare per essere rimasto nel ricordo al di là del palmarès? Mattioli è l'uomo che ha compiuto anche imprese sulla carta impossibili. Quando arrivò a Berlino nel 77 a scommettere sulla sua vittoria, papà e figlio Branchini e un paio di giornalisti, eravamo proprio 4 giornalisti in tutto, certo. 2 erano venuti perché li avevi inviato al giornale, altri invece speravano. E difatti, per capire la delusione dei tedeschi, il manager, che era un pellicciaio di quelli alla grande, che un po' amico di bisboccia del campione Doug, aveva mandato alla stampa un cartoncino tutto scritto d'oro dove eravamo tutti invitati in uno dei suoi night, finita la riunione, per festeggiare la vittoria. Per festeggiare la vittoria, non avrebbe mai. Purtroppo poi si ritrovò che alla quinta ripresa l'uomo a terra era Doug. E quindi la festa si è fatta lo stesso. Ma sì, come no? Difatti disse: allora è finito tutto. E noi ci ritrovammo da soli nella Berlino notturna, dove erano aperti solo i night, con tutti quanti a stomaco vuoto, cominciando anche da Rocky Mattioli, e giriamo per parecchie ore, fin tanto che l'amico che ci aveva ospitato su questa limousine disse: io conosco un certo Mantovani che ha fatto la bocca, che ha un ristorante, parliamo delle 3 di notte, lo chiama, questo si alza, ci accoglie, apre il ristorante, alle 4 del mattino finalmente abbiamo potuto mangiare qualcosa. E festeggiare alla faccia, come no. Alla faccia. C'era anche la fidanzata che poi divenne la moglie e che poi ebbero anche 3 splendidi figli. Esatto. Ma prima io ho detto che paradossalmente forse il match della leggenda è proprio uno dei pochi match che Mattioli perde, cioè quello di Sanremo nel quale lui combatte, cioè lì ci furono delle concause abbastanza evidenti. Poi era già il periodo in cui Mattioli era diventato papà, e ci fu un cambiamento che poi mi confessò. Io sono buon amico, l'ho sentito ancora pochi giorni fa, sono tra i pochi che ancora un colloquio, abbiamo già l'appuntamento in estate a Ripa Teatina dove sarà il premio Rocky Marciano, certo. Per cui, e lui mi confessò una cosa, mi disse: sai Giuliano, cominciavo a non avere più la cattiveria, quando incontrai Fulvio non me ne accorsi subito, ma ci fu proprio un segnale. Salivo sul ring e pensavo al mio figlio, a mia moglie, capivo di essere padre e mi era scappata quella cattiveria che mi aveva fatto diventare campione. E concludevo in una cosa, dice, perché sai, Dio ti dà e ti toglie. Dio mi ha dato la felicità di una famiglia stupenda, di figli, ma mi ha tolto la cattiveria. È una missione, diciamo, molto bella, anche commovente, che comunque specchia l'uomo Mattioli. Mattioli in realtà, quando arrivò in Italia, era proprio un selvaggio, ma questo suo modo era anche la copertura per non far capire che era un gran timido. Com'era il pugilato australiano in quegli anni? Era un pugilato con pochissime regole, pochissime regole. Io parlai anni fa anche con Duilio Loi, che andò in Australia con altri, Visiting, eccetera. Dicevano, guarda lì, dovevi imparare a picchiare in tutti i modi, perché se quello ti dava una ginocchiata, l'arbitro si girava di là e diceva, pazienza. Capito? Quindi era un pugilato veramente violento, con pochissime regole. Anche se poi gli italiani andarono spessissimo a fare tournée perché c'erano molti emigranti, per cui certo, si riempivano gli stadi. Noi cantanti andavamo a fuggire. Si riempivano gli stadi e prendevano anche delle buone borse. Difatti in America ci sono stati tutti, D'Agata, Visiting, no, ma moltissimi proprio. Come può essere classificato Rocky Mattioli? Tra i grandi medi, welter, no, uno dei più grandi? Era un super welter, medio junior, esatto. No, ma sicuramente in Europa è uno dei primi, sicuramente, anche perché tra l'altro quando vai a prendere un titolo mondiale in casa dell'avversario devi essere bravo, altrimenti. Poteva sicuramente fare molto di più se non fosse successo, se non ci fosse stata questa trasformazione mentale, perché il pugilato, anche se in apparenza è una disciplina fatta di pugni, in realtà che comanda è il cervello. Non c'è niente da fare. Grazie. Chiuderei con questa frase. Grazie veramente. Ci sono storie di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno volato in alto, hanno lasciato un segno, persone che hanno avuto cadute e risalite, che hanno saputo combattere, come il protagonista di questa puntata, come Rocky Mattioli, che con l'energia derivante dalla fatica, dall'immigrazione, dalla fame e dal disagio ha saputo costruire una grandissima carriera. E ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche volare in alto, come il Falco e come il Gabbiano. Se volete mandarci dei commenti, scrivete al Falco e Gabbiano @radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci sui miei social, Facebook, Twitter, e insomma, se volete sapete dove trovarmi. Ciao, a domani.